Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Clifford Stein, nel suo messaggio, vuol vedere? Sì, il mio cuore dice una cosa, il mio cervello ne dice un'altra, sai. Non è facile, no, mettere d'accordo cuore e cervello. Per me, cuore e cervello, i miei non si danno neanche del tu. Il cuore è poesia ed emozione, il cervello è pensiero. Vi state accorgendo anche voi, l'avete notato, che anche gli organi sono soggetti alla dura legge della popolarità. Alcuni sembrano più nobili, più importanti, più eleganti di altri. Di loro si parla volentieri, con affetto, ammirazione, sicuramente senza alcun imbarazzo, a differenza di altri. Considerate il modesto intestino e il suo sistema nervoso. I visceri non sono certo il genere d'organo che fa battere il cuore. Nessun poeta scriverebbe mai un'ode all'intestino. Ad essere sinceri, l'opinione generale è che il colon sia una parte ripugnante dell'anatomia. La sua forma è nauseante, il suo contenuto disgustante e ha un cattivo odore. L'intestino è una cosa primitiva, viscida e simile a un serpente. Il suo corpo giace attorcigliato nella pancia e quando si muove striscia. Per farla breve, l'intestino è spregevole e abietto, diversamente dal cervello, dal quale affiorano pensieri saggi. L'intestino è decisamente un organo che soltanto uno scienziato potrebbe amare. E io sono uno di quelli. E lo scienziato è Michael Gerson, neurobiologo presso la Columbia Presbyterian Medical Center di New York, che ha dedicato proprio gran parte della sua vita a dimostrare scientificamente quello che tutti noi inconsciamente sapevamo, e cioè che pensiamo anche con la pancia, o se preferite abbiamo un intestino pensieroso, che a tutti gli effetti può essere considerato un secondo cervello. Secondo però non in termini di importanza, infatti l'intestino o cervello enterico non ha nulla che invidiare a quello posto in alto, quello cranico. Nell'intestino tenue vi sono più di 100 milioni di neuroni, un numero grosso modo uguale al numero di neuroni presenti nel midollo spinale. Aggiungete i neuroni dell'esofago, dello stomaco e dell'intestino crasso e scoprirete che abbiamo più neuroni nell'intestino che nel midollo spinale. Ci sono più neuroni nel sistema intestinale che in tutto il resto del sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso enterico è anche un grande deposito di sostanze chimiche, all'interno del quale è rappresentata ciascuna delle classi di neurotrasmettitori che si trova nel cervello. I neurotrasmettitori sono le parole che i neuroni usano per comunicare l'uno con l'altro e con le cellule sotto il loro controllo. La molteplicità di neurotrasmettitori che si trova nell'intestino suggerisce che la lingua parlata dalle cellule del sistema nervoso enterico sia ricca e simile a quella del cervello nella sua complessità. I neurologi, il cui orizzonte termina ai fori nel cranio, continuano a stupirsi nello scoprire che la struttura e le cellule componenti il sistema nervoso enterico sono più simili a quelle del cervello di quelle di qualsiasi altro organo periferico. Così scrive Michael Gerson nel suo libro Il secondo cervello. E insomma, l'intestino è altro che un semplice tubo governato dai riflessi. Il nostro intestino ha una complessità di compiti e funzioni da fare quasi paura, anzi da meritare, come il cuore, direi, una poesia, un'ode. Quindi prendete spunto dalla trasmissione di oggi e componetela voi. Chiamateci all'800 24 00 24 e potrete ricevere a casa La saggezza del secondo cervello, scritto da Francesco Bottaccioli. Se vi mancano spunti, non avete altro che da seguirci e da farvi aiutare dai nostri esperti. Qui in studio il dottor Emanuele Meroni, direttore della struttura complessa di endoscopia, diagnostica e chirurgia endoscopica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottore, intelligente, sensibile e attivo. Ma ne aggiungeremo altre a questo. Direi incompreso, forse, o non completamente compreso. Mi sembra che l'intestino sia la parafrasi di molti lavoratori oggigiorno che sono frustrati, che lavorano tanto, sodo, e che non sempre sono capiti dai loro datori di lavoro o dai colleghi. Questo possiamo aggiungerlo nel nostro profilo, quindi scatenatevi 800 24 00 24. Ma anche riguardo alle funzioni, no, del nostro intestino, quelle che tutti noi conosciamo, abbiamo in verità poche idee, spesso un po' confuse. Sentiamo. La funzione di assorbimento e di mantenimento delle funzioni organiche, quindi di assorbimento degli alimenti. Sì, è nell'addome. Parte dallo stomaco e arriva al retto, come hai fatto? È un tubo diviso in colon, intestino tenue, intestino crasso. Beh, l'intestino è quello che... Allora, innanzitutto dopo la digestione praticamente serve a far sì che una parte di ciò che si è inserito fuoriesca e quindi va via per mezzo delle feci. L'altro chiaramente credo che si distribuisca nel sangue, io credo. Beh, è un organo molto importante e comunque serve per digerire i cibi dopo che sono stati selezionati, cioè lavorati dallo stomaco, servono ad assorbire tutti praticamente calcio, ferro e tutto ciò che serve al nostro, e poi serve anche per espellere tutto ciò che avanza. Dottor Meroni, ci siamo, ma... Ma direi che tutti quanti promossi con la sufficienza. Si può fare di più. Perché in effetti quando pensiamo all'intestino, molto giustamente una intervistata dice dallo stomaco all'ano. È vero, cioè noi talvolta pensiamo all'intestino come al colon, al crasso, che in realtà è l'ultima parte, quella che serve per veicolare le scorie, oltre ad altre funzioni. In realtà l'intestino parte molto più su, c'è tutta la grossa matassa dell'intestino tenue, di quello sottile. Diciamo che mediamente sono 7 metri, tutti quanti ovviamente attorcigliati perché sennò non ci starebbero nella pancia, che hanno non solo funzioni di rimescolare il cibo, di assorbirlo, ma hanno anche delle funzioni che sono sfuggite, e naturalmente sono note agli addetti ai lavori, che sono funzioni endocrine, cioè funzioni ormonali, perché l'intestino produce ormoni che comandano localmente l'intestino stesso o a distanza, e hanno funzioni nell'ambito del sistema immunitario. L'intestino è la nostra barriera verso l'esterno, quindi cominciamo noi dalla bocca con le tonsille, che sono una barriera importante del nostro sistema linfatico, e via via lungo tutto il tubo digerente abbiamo altri gruppetti di cellule del nostro sistema immunitario che combattono questa battaglia quotidiana contro gli agenti che cercano di aggredirci dall'esterno. Prendete appunti, iniziate a comporre la vostra ode, potete scrivere versi, un pensierino, perché oggi vogliamo dare all'intestino quello che è suo, la sua, riportarlo un po' al pari del cuore e del cervello, perché non ha nulla da invidiare a questi altri due organi. Assolutamente sì, direi che forse la medicina tradizionale cinese aveva dato un po' più di dignità a questo organo che, secondo poi i vecchi schemi della medicina tradizionale, era considerato un po' come la cloaca di palazzo. Ecco, in realtà così non è. Quindi giusto, rivalutiamolo, facciamo una battaglia. Pro colon. Dai, pro colon, mi piace. 800 24 00 24. Nessuno riesce a pensare seriamente se la sua mente è concentrata sulla toilette. Questa è sempre una frase che abbiamo preso dal libro di Gershon e la dice lunga, sì. Dottor Meroni, perché è vero che... Esperienza quotidiana, quanto una difficoltà nelle funzioni intestinali, sia nel senso eccessivo, nel senso invece di scarsità, provoca comunque dei disturbi generali, sistemici, per cui alla fine uno è concentrato o è impedito fisicamente anche, quindi non è il secondo cervello. Talvolta osservandoci e guardandoci attorno viene il dubbio che sia quello dominante, ma il secondo cervello collabora. Dice collabora. La sua, e devo dire che sarà intelligente ma anche un po' bizzarro, perché a volte il suo comportamento cambia e sono proprio i cambiamenti delle sue abitudini a creare un po' di sospetto, o meglio a suggerirci di dedicare a questo secondo cervello un po' di attenzione. Dottor Meroni. Certamente, ci sono dei disturbi che devono essere attentamente valutati dal medico di medicina generale o dallo specialista per capire se sono disturbi funzionali, cioè legati a un cattivo funzionamento dell'organo, che non significa che non è malato, è malato ma funziona male, dai disturbi che invece sono legati a problemi organici, e qui entriamo nell'altro grosso capitolo, ma fino ad ora ci stiamo concentrando su questo secondo cervello che è un po' ansioso anche lui, come lo siamo noi, e quindi certo. Fa muovere troppo l'intestino o troppo poco, quindi produce stitichezza o diarrea, da gonfiori, da tutte queste senza dolori, tutti i disturbi che ne conosciamo perché bene. La cosa curiosa è che i due cervelli si parlano e si condizionano. E certo, diciamo che il coordinatore, il grande coordinatore è sempre il sistema nervoso centrale, il cervello, perché gli stati emotivi possono influire sul funzionamento del secondo cervello, ma il secondo cervello, quello intestinale, funziona anche in maniera autonoma. Di notte, quando quell'altro dorme, lui lavora. Il grande lavoratore, che esatto, spesso non è apprezzato. Pronto? Io sono la camera 35. Sì, vorrei qualche cosa da mangiare. Da? Com'è? Beh, com'è mangiare? Ma non roba pesante, roba leggera. Qualche panino, sì, qualche acciugo, un po' di burro, spaghetti, carne, pesce, bene, bene. Sì, carne, pesce e osso buco. Benone, sono ghiotto. Oh, ma senza osso, solo il buco, eh? E no, perché l'osso non lo digerisco. Frutta, formaggio, caffè e antipasto. Io per antipasto piglio pasta e fagioli. E un po' di bicarbonato. Tutto questo per quattro, eh? Ma mi raccomando, subito. Nel corso della vita passano nell'intestino circa 30 tonnellate di alimenti e non è difficile pensare quanto il tipo di alimentazione condizioni l'attività e la salute del nostro secondo cervello. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Franco Berrino del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva alla Fondazione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dottor Berrino, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Berrino, mi dica la verità, ma se l'intestino fosse una persona, sarebbe vegetariano? Ma probabilmente sceglierebbe prevalentemente del cibo vegetale, perché il cibo animale contiene dei precursori dell'infiammazione, quindi mangiando carni e formaggi è più facile avere delle infiammazioni dell'intestino, mentre l'intestino desidera non avere infiammazioni, quindi desidera avere una certa ricchezza di fibre vegetali e soprattutto di cibo vegetale ben masticato. Però, sa, non è che bisogna essere vegetariani, no? A parte che i vegetariani a volte mangiano proprio malissimo, perché mangiano Coca-Cola, zucchero e si fanno di formaggi, no? E non, per cui diciamo che l'intestino preferirebbe uno stile alimentare saggio, ecco, con relativamente pochi alimenti animali e pochi alimenti industrialmente raffinati. Quindi il cibo lo può, uso la parola tra virgolette, irritare, certo, ma il cibo lo può anche curare, il cibo anche come terapia. Di questo parleremo oggi con il dottor Berrino, ma dottor Meroni, oltre al tipo di alimentazione, quali sono i nemici della salute del nostro intestino, di questo lungo serpentone, l'abbiamo definito così? Ci sono le abitudini voluttuarie, tipicamente fumo e alcol. Ora, l'alcol non è ben chiaro per quale motivo provochi soprattutto i disturbi funzionali dell'intestino, probabilmente favorisce la fermentazione batterica che è responsabile poi della produzione di gas e quindi di gonfiori, dolore. Mentre il fumo, almeno su due versanti, uno è quello della nicotina, che è simile alla caffeina, quindi è un eccitante, e quindi questo stimola la motilità dell'intestino, soprattutto in chi c'è predisposto, e l'altro il catrame. Si consideri che la combustione della sigaretta, del tabacco e della carta genera oltre 4.000 sostanze chimiche, di cui 40 cancerogene. Sicuramente uno dei grossi incriminati è il catrame con tutti i suoi componenti. Quindi noi pensiamo subito e sempre alla relazione col polmone, ma ricordiamo che, certo, anche il nostro intestino, essendo pensante o pensieroso, certo, viene danneggiato anche dal fumo. Professor Berrino, vogliamo aprire una parentesi sulle fibre? Sono già arrivati tantissimi messaggi al 349-238-6666. Da quando io ho detto vegetariano, molti dei miei ascoltatori mi hanno scritto: l'intestino deve mangiare cibi non raffinati, integrali, per la ricchezza di fibre. Ma vogliamo intenderci, di quali fibre parliamo e gli fanno sempre bene? Ma sa, l'ipotesi delle fibre per la salute dell'intestino è molto vecchia e risale agli anni 70, quando il dottor Dennis Burkitt, no, che lavorava in Africa, era un medico missionario in Africa, aveva osservato che negli africani dell'Uganda non c'erano emorroidi, non c'erano coliti, non c'era stitichezza, non c'erano ulcere, non c'erano neanche gastriti. e aveva ipotizzato che questo fosse dovuto alle fibre, no? Poi molti hanno detto Burkitt ha dimostrato questo, in realtà Burkitt non aveva dimostrato niente. Sì. Vi racconto questo brevissimo aneddoto. Burkitt aveva una diapositiva sola quando faceva le conferenze e era divisa in quattro. C'era la fotografia di un ospedale europeo, quindi un grande edificio, un ospedale africano, una piccola cosa con tetti di paglia, e vicino c'era la fotografia della cacca di un europeo, no? Che era un piccolo stronzetto, no? E della cacca di un africano, una bella grande cacca. Vedete, diceva cacca piccola, ospedale grande, cacca grande, ospedale piccolo. In realtà ci sono voluti molti anni perché gli studi chiarissero, no, in modo piuttosto convincente che le fibre sono effettivamente protettive. Sono i grandi studi prospettici che facciamo sia in Europa sia negli Stati Uniti sia anche nel resto del mondo adesso, ma sono soprattutto gli studi in Europa e negli Stati Uniti che hanno chiarito ultimamente il ruolo protettivo delle fibre. Chi mangia più fibre muore meno di malattie di cuore, di cancro, di malattie respiratorie, di malattie dell'intestino e anche di malattie infettive, pensate, proprio perché l'intestino ha un ruolo sull'immunità. Però quando andiamo a esaminare i diversi tipi di fibre, vediamo che le fibre dei cereali sono protettive per tutte queste patologie. Sulle fibre dei legumi e le fibre delle verdure vediamo una certa protezione, ma modesta, sì. E non vediamo una gran protezione per le fibre della frutta. No? Quindi sono soprattutto le fibre dei cereali. Le fibre dei cereali che drammaticamente, no, nella evoluzione, nella globalizzazione del modo di mangiare, stanno scomparendo, sono in gran parte scomparse dalla nostra alimentazione, o si sono ridotte molto, sì. No? Salvo poi essere riproposte come integratori, no? Ma noi sappiamo che gli integratori di fibre non servono, non bisogna mangiare i cibi nella loro integralità. Io vorrei leggervi, professor Berrino, dottor Meroni, una piccola ode, un messaggio che ci è arrivato da Paolo, che è molto carino, quello che ha risposto al nostro invito, e cioè inventatevi un'ode, un verso per l'intestino, e lui mi ha scritto: tanto contorto ma funzionale, se non funzioni sto molto male, se ti trascuro che mal di testa, mangio di meno e farai festa. Questo devo dire, già, questa Paolo ce la teniamo, la mettiamo anche come primo messaggio sul commento della nostra puntata. Naturalmente a Paolo faremo arrivare a casa La saggezza del secondo cervello di Francesco Bottaccioli, ma ne abbiamo un altro libro anche per chi chiamerà all'800 24 00 24. E intanto abbiamo Lucia che ci chiama da Firenze. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Telefonavo per mio figlio che ha 14 anni, è magrissimo, e lui da sempre ha avuto questo, diciamo, problema, che lui come mangia istantaneamente va in bagno. Ma proprio una cosa immediata. E sentendo il pediatra mi ha sempre detto che le analisi andavano bene, non c'era da preoccuparsi. Però da sempre ha questa diciamo, attività intestinale molto, insomma, molto rapida. È regolato in questo modo. Dottor... Mangia prevalentemente, gli piacciono i dolci. E cereali integrali pochi. Professor Berrino. Ma c'è, e questa è una cosa molto molto nota, no? C'è questo riflesso proprio fisiologico, no? Che quando si mangia, no, c'è uno stimolo alla motorità intestinale. Probabilmente il professor Meroni ne sa molto più di me di questo. E a volte queste cose sono esagerate, queste reazioni sono esagerate. In linea di massima, in questi casi mi accerterei di masticare molto molto bene. Quando noi mastichiamo molto molto bene, l'intestino comunque ringrazia. Ecco, no? Questo è un altro dettaglio da aggiungere al profilo per il nostro intestino. Essere e benessere. Stare bene fa bene. Se nasci spesso resti giovane sempre. E E riprendiamo ad occuparci dell'intestino, un organo che vogliamo rivalutare perché ha tutte le carte in regola per giocarsela con organi considerati più nobili come il cuore e il cervello, perché stiamo oggi scoprendo tutti i compiti che svolge. È intelligente, abbiamo detto anche a volte pensieroso, perché certo. Aiuta il nostro, assimila tutti l'energia dalla nostra dieta. Il dottor Berrino ci suggeriva, no, quello che piace di più all'intestino, e sicuramente ha bisogno di fibre, ma il dottor Berrino suggeriva di provenienza soprattutto quelle dei cereali integrali più che della frutta e della verdura, vero dottor Berrino? Questi sono risultati coerenti sia delle nostre grandi coorti europee sia delle coorti americane. Lo studio ETIT in particolare ha trovato questa forte associazione protettiva con le fibre dei cereali. E naturalmente le fibre vanno bene se l'intestino non è infiammato, se c'è una colite, le fibre, in particolare le fibre dei cereali indurite della cottura al forno, il pane integrale, che è una cosa che noi consideriamo una cosa ottima per l'intestino, non è certo indicato in chi ha una colite, no? In chi ha una colite è bene mangiare i cereali integrali sotto forma di crema di cereali, cioè cereali molto molto cotti, no? Poi passati al setaccio per ridurre un po' la quantità delle fibre. Proprio perché c'è un effetto meccanico delle fibre. Questo è un esempio del cibo proprio che cura, quindi. Direi che è molto importante l'argomento che ha tirato in ballo l'amico Franco Berrino, perché cominciamo a capirci, cioè colite, una volta veniva chiamata colite spastica anche il colon irritabile. Oggi noi sappiamo che la sindrome dell'intestino irritabile, che è il termine più corretto con cui si può indicare colite spastica, non è una malattia infiammatoria, anche se una componente infiammatoria c'è, e questo meriterebbe un discorso a parte, forse all'origine di alcuni disturbi. Altro è parlare delle coliti vere e proprie, parliamo di coliti ulcerose, parliamo di tutto quel grosso capitolo delle malattie infiammatorie dell'intestino, dove è fondamentale che l'intestino non venga affaticato, è come se avessi un crampo al muscolo e pretendessi di correre, è già tanto che cammini. Certo. E quindi certo la dieta da questo punto di vista, e quindi la quantità di fibre che possono essere veicolate dall'intestino, ma non pensiamo soltanto ai principi che ci sono, ma al volume che occupano le fibre. Chi soffre di colon irritabile soffre con un volume eccessivo, avverte dolore, pare che ci sia proprio una diversa soglia del dolore, una ipersensibilità dell'organo, del colon, per cui la distensione della parete intestinale, che una persona normale neanche avverte, la persona che soffre di colon irritabile l'avverte come stimolo doloroso. Giovanni, ci chiama da Bergamo e poi abbiamo Marisa da Padova. Buongiorno a voi, a tutte e due. Giovanni. Buongiorno, grazie. Il mio problema è questo, sostanzialmente. Lo stress lavorativo e la tensione quindi del lavoro mi provoca spesso queste coliti o crampi allo stomaco, perché vado a scaricare tutta questa tensione proprio su questi. C'è un qualcosa che potrebbe aiutarmi a risolvere un po' questa mia situazione? È vero, il lavoro Ma verrebbe da dire, no? Cambiare lavoro, ma non si può. Vogliamo tenercelo strettissimo. In questo momento sì. Però... molto, molto appropriata l'osservazione, cambiare lavoro, cambiare colleghi, oppure cercare un equilibrio nostro, perché riusciamo a razionalizzare gli eventi che sappiamo essere stressanti. Sicuramente gli eventi stressanti, il lavoro tra le prime cause, può influire come primo cervello sul secondo cervello, perché è uno dei fattori noti per il colon irritabile, l'amplificazione di quello che si diceva prima, anche che diceva professor Berrino, del riflesso gastrocolico, cioè quel riflesso per cui quando noi mangiamo tutto l'apparato si mette in moto. Ecco perché chi soffre di colon irritabile, per esempio, ha amplificato questo problema e dopo un pasto ha un'urgenza all'evacuazione. Dottor Berrino. Professor Berrino. Ma questa cosa della distensione dell'intestino a cui accennava Meroni è chiaramente molto importante. E di nuovo allora ritorno sul fatto che perché l'intestino non si distenda bisogna evitare che ci siano delle eccessive fermentazioni e produzioni di gas nell'intestino, no? Di nuovo cosa dobbiamo fare per questo? Dobbiamo digerire in bocca, non dobbiamo masticare tanto in modo che la saliva digerisca gli amidi e gli amidi arrivino nell'intestino già completamente digeriti e le fibre che arrivano siano già un po' rammollite, diciamo, da una buona idratazione, no? In questo caso avremo meno distensione dolorosa dell'intestino. In realtà la formazione, la fermentazione delle fibre nell'intestino è una cosa utile, no? Perché nella fermentazione delle fibre si formano degli acidi grassi, i cosiddetti acidi grassi a catena corta, che sono un ottimo nutrimento per la parete, no? Però bisogna che la aiutiamo questa cosa, no? Che la aiutiamo con una sento che mi ripeto troppo, ma comunque con una intensa e prolungata masticazione di ogni boccone. Intanto voglio leggerle, professor Berrino, l'SMS di Tina. Caro amico bistrattato, spesso troppo trascurato, ti prometto d'ora in poi d'esser come tu mi vuoi, frutta, yogurt, fagiolini, via i cibi troppo fini. Ma siete fantastici. Tina, io devo mettere mano alla libreria, ma Laura Vanossi sarà d'accordo, di Essere Benessere, perché ne stanno arrivando uno più carino dell'altro. Allora Tina, ci segniamo, faremo arrivare a casa zero paranoie, proprio perché ci auguriamo che si occupi anche dell'intestino come organo pensante. Andiamo a Marisa da Padova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marisa. Allora, caro intestino, bevo acqua prima di colazione al mattino. Questo ti aiuta a fare dopo meno il birichino. E durante il giorno mangio roba vegetale, così tu dopo non starai male. Ma brava Marisa! Grazie! Ma brava, un libro anche a Marisa che la nostra Laura Vanossi cercherà, perché sono assolutamente i messaggi che ci mandano, i versi dei nostri ascoltatori, assolutamente in linea. Se le possiamo anche regalare, li appunto, li regala al professor Berrino e al dottor Meroni, che potreste così sì, regalare a volta vostra dei pazienti. Una confezione di cereali, per esempio. Una confezione di cereali. Poi parliamo di questi cereali integrali, di questi piatti a base di cereali integrali, perché i nostri ascoltatori vogliono, professor Berrino, capire esattamente come mangiare, ma noi vogliamo anche, oltre che masticare bene, ma io vorrei chiedere anche al dottor Meroni, perché quando sentivamo il meteo il dottor Meroni mi diceva sarebbe carino avere anche un meteo del nostro intestino, no? Certo. Ecco, perché a volte fa i capricci, è nuvoloso, a volte è più solare, è sorridente. In effetti sulla funzionalità del nostro intestino anche lì ciascuno racconta un po' la sua. E soprattutto è importante che venga ascoltata e interpretata correttamente, perché poi non dimentichiamoci che accanto ai disturbi funzionali ci sono i disturbi più importanti, cioè quei campanelli d'allarme di malattie, dalle malattie infiammatorie intestinali ai polipi, che talvolta si associano anche a altri disturbi tipo tracce di muco o di sangue, altre volte no, tipicamente i polipi intestinali o in certe forme tumorali si associano proprio come primo campanello d'allarme a un cambiamento improvviso delle abitudini intestinali, quindi sempre molta attenzione, non banalizzare, il secondo cervello merita attenzione come il primo. Essere e benessere. E andiamo a Pisa, ci aspetta Pietro. Buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno. Volevo innanzitutto fare i complimenti al dottor Berrino, che seguo personalmente da molto, e lui sostiene che un'esagerazione di apporto proteico, specialmente di origine animale, intossica l'organismo, quindi avvelena proprio. E volevo chiedergli se c'è un consumo medio, cioè come si può fare a ottimizzare un consumo medio proteico di origine vegetale invece, per un adulto, ecco, un adulto di 40 anni come potrei essere io. Questa era la mia domanda. Prof? Ma ci sono tantissime proteine nel mondo vegetale, ci sono proteine nei cereali che vanno dal 10 al 15% del... ci sono molte proteine nei legumi, e se lei nota il modo tradizionale di mangiare di tutti i popoli del mondo prima della rivoluzione industriale dell'alimentazione, no, era cereali non raffinati e legumi, c'è la nostra pasta e fagioli, il couscous con i ceci, il riso con i prodotti della soia in Oriente, no, e il mais con i fagioli neri nel Messico. Perché tutti i popoli avevano capito, no, che questo era un modo che manteneva una buona salute. E la nostra raccomandazione è di avere un piatto ricco di cereali con un pochettino di legumi, comunque non esagerare nemmeno con i legumi, perché noi mangiamo circa il doppio delle proteine di cui abbiamo bisogno. Nei nostri studi vediamo che circa il 16% delle calorie totali in media vengono dalle proteine. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'8% delle calorie totali da proteine, quindi ne mangiamo il doppio, per cui non abbiamo paura di rimanere senza proteine, no? Se andiamo sul vegetale, anzi, se mangiamo, ci sono più proteine nei legumi che nella carne, nei legumi secchi. Basta avere una dieta dove c'è una varietà di cereali, una varietà di legumi, una varietà di verdure, no? Noi siamo sicuri di non avere delle carenze proteiche. C'è ragione di ritenere che effettivamente che le proteine vegetali facciano un po' meno male delle proteine animali, però non, dico, tutte le proteine sono molto acidificanti, no? Per cui bisogna non esagerare con le proteine, un'acidificazione del nostro organismo è una cosa piuttosto negativa. Professor Berrino, voglio leggerle un messaggio che ci ha inviato Davide da Padova, proprio a proposito della masticazione. Un antico detto orientale dice: bevi i solidi, mastica i liquidi, nel senso di ridurre quasi allo stato liquido i cibi con la masticazione, e masticando i liquidi invece li si porta alla temperatura corporea per evitare shock a stomaco e pancia. Questo è il consiglio che ci manda Davide. È un grande consiglio. È un grande. Una volta eravamo veramente sani, insomma, no? Adesso invece mettiamo il ghiaccio nel bicchiere prima di versarci sopra l'acqua, o peggio se versarci la Coca-Cola, no? E il nostro organismo non gradisce questa roba qua, no? Certo, noi dobbiamo cercare, scaldiamo pure, utilizziamo questo piccolo forno che abbiamo per scaldare le cose fredde prima di mandarle giù. Beh, del resto ci sono tanto di massime anche della scuola medica salernitana, prima digesti o fitinore, cioè per rivalutare la masticazione, e da qui il ruolo anche non trascurabile dei pazienti anziani che hanno problemi o di masticazione perché non hanno proprio i denti. Quindi tutto concorre ad una corretta digestione, a incominciare dalla bocca, così come abitudini scorrette, tipo quella di mangiare mentre si parla, sì. Le colazioni di lavoro ci hanno rovinato definitivamente, masticare chewing gum, perché con la gomma da masticare un'ingurgita aria, bere con la cannuccia, sono tutti piccoli accorgimenti che possono peggiorare lo stato del nostro intestino, perché comunque introducono aria che al nostro intestino non serve, non gli piace tanto. Abbiamo sottolineato e stressato anche la relazione tra primo e secondo cervello, si influenzano reciprocamente, ma dottor Meroni, bisogna anche capire quando invece l'intestino ci manda dei segnali di sofferenza che non sono solamente il frutto di una vita molto stressante, delle preoccupazioni, dell'ansia, ma sono segnali con cui il nostro intestino sventola un po' bandiera bianca e dice: eccomi, sono qua, occupati di me, vai a vedere che cosa succede. Dottor Meroni. Giustissimo, se non dobbiamo dimenticare che il problema del colon irritabile è la seconda causa di visita presso i nostri ambulatori di gastroenterologia dopo la malattia del reflusso, quindi diffusissimo, non bisogna neanche banalizzare e trascurare, imputando a problemi funzionali di stress qualunque disturbo provenga dall'intestino, per cui è corretto in un approccio diagnostico tradizionale percorrere una serie di tappe di esami, perché la diagnosi di sindrome dell'intestino irritabile è quasi una diagnosi per esclusione, sì. Cioè, dopo aver escluso che ci sono altre problematiche, si arriva, comprese quelle più fini, ci sono forme di coliti che sono state descritte recentemente, tipo le coliti microscopiche, le coliti collagene, quindi tutta una serie di problematiche, una volta escluse le quali siamo certi che è un problema funzionale e come tale quindi verrà curato. Allora, quindi, quali sono le età più da tenere sotto controllo? Tutte le età. Ora, il colon irritabile esordisce tra i 30 e i 50 anni. Di solito, invece, in età avanzata è difficile che questo disturbo si manifesti, mentre in età avanzata predominano altri disturbi, e sto pensando ai polipi. Pensiamo che sopra i 60 anni il 25% della popolazione ha un polipo. pensiamo ad altre malattie. Quindi ci si aiuta anche con l'età nelle varie valutazioni che il medico di medicina generale piuttosto che lo specialista gastroenterologo deve fare per poter indirizzare il paziente a una serie di esami che sono esami del sangue, esami strumentali, tra cui anche talvolta la colonoscopia. Certo. Va detto, nel senso va detto che la colonoscopia ci tocca. Cioè, non dico che tocchi a tutti, però si parla tanto di prevenzione, si sa per quanto riguarda il rischio polipi che a 50 anni canonicamente tutti quanti dovremmo avere uno studio del nostro intestino per evitare grane, per evitare seccature. Quindi se poi una persona ha familiarità, sicuramente l'attenzione deve essere ancora maggiore, o familiarità o in casi particolari ereditarietà, allora queste sicuramente ci spostano i sospetti verso altro campo, verso altra problematica. Allora io vorrei approfittare degli ultimi minuti di trasmissione per prenderci il tempo per parlare con il professor Berrino di un progetto che sapete a me sta particolarmente a cuore, il progetto Diana 5. Professor Berrino, sommando i 10 centri che collaborano al progetto, l'arruolamento è arrivato a più di 2000, col mese di giugno voi chiuderete questa fase di arruolamento, vero? Sì, sì, ma questo è un progetto rivolto alle signore che hanno avuto un tumore della mammella. Siamo un po' fuori tema, però in realtà noi lavoriamo prevalentemente sull'intestino. Suggeriamo a queste signore di avere una dieta che riduca lo stato infiammatorio, che faccia funzionare molto bene l'intestino, no? E quello che vediamo è che è una meraviglia, uno si mette a mangiare bene, a mangiare di gusto anche, e automaticamente dimagrisce, si abbassa il colesterolo, si abbassano i trigliceridi, si abbassa la glicemia, si abbassa la pressione, no? Tutti questi disturbetti che sono caratteristici, insomma, no, che aumentano progressivamente con l'età, no? E mangiando adeguatamente, no, migliorano, no? E un'alimentazione ricca di fibre è proprio quella che aiuta, no, a tutte questi miglioramenti. Infatti vi dicevo prima che un'alimentazione ricca di fibre non è soltanto salutare per l'intestino, ma riduce le malattie di cuore, riduce complessivamente la mortalità per tumori, no? Quindi non è soltanto un'azione sui tumori dell'intestino, dove è molto ben documentata la protezione delle fibre, ma è un'azione sull'equilibrio dell'organismo nel suo complesso, no? Un'alimentazione, ma guardate che non servono le fibre comprate in farmacia, ci vogliono le fibre nella loro naturalezza. Quindi si prende il riso integrale, tradotto concretamente, il riso integrale si fa cuocere invece che riso bianco, abbiamo dei meravigliosi risi integrali profumatissimi, tra l'altro. Si deve cucinare in un modo un po' diverso, eh? Sì. Non è che si mette il riso a bollire nell'acqua e poi si scola, perché tutte le sostanze buone se ne vanno via, no? Si fa consumare piano piano l'acqua, ma va benissimo il miglio, va benissimo il farro, no? Le zuppe, le nostre meravigliose zuppe di farro e zuppa di orzo, no? Che è della tradizione culturale italiana. Tutti i cereali vanno bene. Adesso quando fa freddo va benissimo il grano saraceno, che non è proprio un cereale ma è un meraviglioso simil cereale, diciamo. Sì. Quindi l'importanza è di inserire i cereali integrali, ma l'importante è anche, questo mi rivolgo alle donne fra i 35 e i 75 anni che hanno avuto un tumore della mammella diagnosticato negli ultimi 5 anni, di rivolgersi, di andare sul sito dell'Istituto Nazionale dei Tumori per progetto Diana 5. Noi tutte le indicazioni le mettiamo anche sulla pagina di Essere e Benessere. In tempissimo, Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, professor Berrino, dottor Meroni, grazie per essere stati con noi. A domani, al dopo le 11:00.